Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci siete? Sì. Ehi. Ci siete. Ok, cool. Allora, che bella conferenza è stata, veramente. Io mi sono divertito tantissimo. È veramente una... Dicevo a alcuni prima che abbiamo iniziato che voi siete una chiesa molto incoraggiante. C'è sempre qualcuno che ti dice qualcosa di positivo, qualcosa di bello, qualcosa... Almeno io ho vissuto questo da voi, no? Quindi anche ieri e avantieri, prima della riunione, c'era sempre il briefing, o debriefing, come si dice, il briefing. È bello vedere che succede dietro le quinte, diciamo, anche che questo spirito di incoraggiamento e di coraggio, di questo essere positivo è dappertutto e quindi è molto potente. Sapete che non, è una cosa rara, sapete questo? Non è in ogni parte, in ogni chiesa, che c'è questo incoraggiamento, incoraggiare uno l'altro. Io vi voglio incoraggiare a mantenere questo spirito di incoraggiamento. Sapete, lo Spirito Santo si chiama, Gesù lo chiamava il Paracletos, quando lo Spirito viene, e lui è uno spirito di, la Bibbia dice conforto, ma la parola originale è di incoraggiamento. Un nome dello Spirito Santo è quello che incoraggia, è qualcosa che lui fa regolarmente, quindi ogni volta che ci incontriamo dovremmo andare a casa sempre incoraggiati, vero? E non sottovalutare mai la potenza dell'incoraggiamento, perché essere coraggiosi significa avere coraggio, essere incoraggiati significa avere coraggio, essere scoraggiati quando il coraggio ti ha lasciato, quando una situazione ha tirato il coraggio che tu avevi fuori dalla tua vita, hai bisogno di essere incoraggiato. Io dico sempre, bisogna andare nelle riunioni della chiesa con una siringa così grossa, piena di coraggio, e cerchi una vittima. Appena ne vedi uno, zac! Devi fare una siringa di coraggio. Amen? E non è soltanto quello che fate come chiesa che è molto potente, ma è quello che siete. Quello che siete. Fare qualcosa, per esempio avete organizzato una conferenza, il weekend è finito, molto lavoro per molti di voi, ma essere è qualcosa che ogni giorno, è ogni giorno. E voglio incoraggiare a continuare a essere come chiesa un incoraggiamento, a essere una chiesa profetica che incoraggia altre persone che forse hanno mollato la Chiesa, hanno smesso di credere nella Chiesa. Il Signore vuole incoraggiare la gente che ha smesso di credere nella Chiesa tramite chi siamo diventati. Ok? Yes? Sì. Ehi, sei svegli? Sì. Yeah, ok, cool. Allora, leggiamo insieme. Voglio leggere lettera ai Filippesi, capitolo 2, lettera ai Filippesi, capitolo 2, verso 5. Abbiamo sentito che Natale si sta avvicinando, vero? Anche qui? Quindi porto un messaggio natalizio oggi, Un messaggio natalizio, ok. Questo è il messaggio di Natale, scritto qui in Filippesi, capitolo 2, verso 5, fino al verso 11, è scritto: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio. del Padre. Come diceva anche la conferenza, Natale significa che Gesù è diventato uno di noi. Questo è un messaggio molto potente. In tutte le religioni la gente cerca di arrivare a un Dio, arrivare a uno stato di essere celeste, non so, il settimo cielo. Invece la fede cristiana è l'unica che dice Dio è venuto da noi, è diventato uno di noi. C'è una traduzione inglese che dice la parola è diventata carne, è abitato in the neighborhood, come si dice in italiano, neighborhood? Nel vicinato. La parola è diventata carne e è abitata nel vicinato. Mi piace tanto. Gesù è diventato uno di noi. Ma sapete, io ho un po' un po' di fantasia anche, come che è successo nel cielo quando hanno preparato tutto per la venuta di Cristo sulla terra. Era il compito dello Spirito Santo di fare un briefing con Cristo e parlare come sarebbe venuto il fatto che Cristo diventa un essere umano sulla terra. Quindi lo Spirito Santo dice a Cristo, dice, allora come lo facciamo questa cosa che tu vai sulla terra? Come vuoi andare sulla terra? Come un angelo? Vuoi andare come uno degli animali del libro della Revelation? Apocalisse, sette occhi, tre teste, come vuoi andare? Come vuoi andare nella terra? E puoi scegliere come vai sulla terra. E Cristo dice, io preferisco andare sulla terra come un uomo, come essere umano. Voglio andare come un essere umano sulla terra, no? E lo Spirito Santo dice, ma sei sicuro? Sei sicuro che vuoi fare questo? Lui dice, sì, sono sicuro. Sì, ma poi se tu vai come un essere umano sulla terra, tu sei una persona che può essere tentata, no? Si può dire in italiano tentabile? Lo inventiamo ora. Da ora in poi, tentabile. Tentabile. Una cosa bella quando uno parla molte lingue, francese, inglese, italiano, tedesco, tutto questo qua, perché certe volte inventi delle parole, che sono parole che si potrebbero dire, che non esistono. La nostra chiesa ogni volta dicono questa è una nuova parola che Gianni ha inventato, che la mettiamo parte della lingua tedesca, no? Oh, la prima volta che invento una parola italiana, tentabile. Lo Spirito Santo dice a Gesù, ma tu vuoi essere un essere umano, proprio che può essere tentato? Quello che vuoi dire tu? Gesù dice sì. E lo Spirito Santo dice, ma, no, ma sei sicuro? Mi ricorda troppo al primo uomo che abbiamo fatto insieme, che Adamo, e quello era anche tentabile, è stato tentato, abbiamo perso tutto. Sei sicuro che vuoi veramente andare come uomo, proprio come uomo? No. Sì, voglio andare come uomo sulla terra, voglio diventare uno di loro, voglio diventare. Voglio essere anche una persona che può essere tentato, che veramente vive tutto quello che gli esseri umani vivono sulla terra. E sapete, la Bibbia dice in Ebrei, capitolo 4, verso 15, dice questo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato... Tentato. È stato... Tentato. Come noi. È stato tentato come noi. In ogni cosa, senza commettere peccato. Vogliamo sempre avere questa immagine di Gesù che non era sicuramente tentato da una bella donna o non so, altre cose, di dire una bugia o di rubare oppure di... non so. Pensiamo questo, ma sapete che non è vero, non è impossibile. Gesù, la Bibbia dice qui, che è stato tentato come noi in ogni cosa, no? Di nuovo, in ogni cosa. È molto bello perché quando noi pecchiamo, quando noi facciamo cose sbagliate, Gesù ci comprende. Gesù non ci giudica, non ha giudicato i peccatori allora e non giudica i peccatori nemmeno oggi. La Chiesa dovrebbe essere il posto dove la gente più corrotta, la gente più peccaminosa vogliono venire. È come un ospedale, non andresti mai all'ospedale, diresti al no, me ne devo andare a casa. Il dottore dice, ma perché dovresti andare? Sei appena arrivato. No, io sono troppo malato, me ne devo andare. Non esiste, no? Troppo malato. Quindi, perché Gesù comprende, ci comprende, ha vissuto tutto quello che noi abbiamo vissuto senza peccato. Poi dice, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia di essere soccorsi al momento opportuno. Sai quando tu hai bisogno di soccorso? Quando hai bisogno di soccorso. E molto spesso quando noi abbiamo bisogno di soccorso non andiamo da Dio. Molta gente non va da Dio quando hanno fatto qualcosa di sbagliato, quando hanno peccato. Non vanno da Dio. E questo è il messaggio che noi come Chiesa dobbiamo dire a tutti. Non c'è nessuno che ha fatto qualcosa che è così sbagliato che non può andare da Dio. Anzi, quando tu vedi qualcuno nella tua città, nel tuo paese, che è conosciuto come una persona che è immorale, una persona che è proprio cattiva, vai da lui e di, ma sai che tu andresti così bene da noi in chiesa, tu ci manchi proprio, tu uno come te vogliamo avere. Applaudite per bene, sì. E quando queste persone vengono a far parte o vengono in una riunione come questa, trovano il cuore di Dio, che non è uno che dice, ma come ti permetti di essere così? Perché Gesù dice, e fu tentato in ogni cosa senza peccato, quindi ci comprende. Quindi poi lo Spirito Santo ha detto a Gesù, ha detto, ma tu almeno vuoi andare come il boss, no? Almeno questa volta vai un po' come, vabbè, Adamo era anche il boss della terra, tu devi andare almeno come il boss. E Gesù dice, no, non voglio andare come il boss, io voglio andare come un servo. Gesù sapeva qualcosa che molti non sanno, che un servo ha più potenza del boss. Nel cielo essere un servo è più potente di essere il boss. Sapete questo? Voglio andare come servo. Io mi voglio abbassare, dice Gesù, così posso raggiungere tutti. Avete notato la storia quando questa donna fu colta in adulterio e tutti, diciamo, la volevano lapidare? E Gesù dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra. La Bibbia dice che Gesù si è abbassato e ha cominciato a scrivere sulla terra. E ci sono dei teologi che dicono, ma che cosa ha scritto? Vorremmo sapere che cosa ha scritto, ma chissà che cosa ha scritto. Se avevamo avuto i nostri smartphone almeno, avremmo potuto prendere la foto di quello che ha scritto, chissà che cosa profonda ha scritto. Ma sai, io penso che Gesù si è abbassato non perché voleva scrivere in effetti, ma perché voleva che questa donna si sente servita, si sente, come si dice, served, aiutata, e non... Ma così, si è abbassato. La Bibbia dice, lui si abbassò, abbiamo letto. Una volta Gesù si è abbassato anche quando ha lavato i piedi dei discepoli. E poi dice lo Spirito Santo, ma ok, una qualità speciale. Troviamo una qualità speciale con la quale tu vai sulla terra. E Gesù dice, sì, ho una qualità speciale, ce l'ho, la so quale voglio. La qualità speciale è l'ubbidienza. E lo Spirito Santo dice, veramente, sì, l'ubbidienza è potente. Voglio essere un essere umano, voglio essere un servo e voglio essere ubbidiente. Immaginate, il Figlio di Dio, per aver successo sulla terra, dice, voglio essere un essere umano, not Superman, un essere umano normale, voglio essere un servo e voglio essere ubbidiente. Wow! Diciamo insieme, wow! Paolo ha scritto una lettera ai Romani, Romani capitolo, non so, verso 19, ho dimenticato di mettere il capitolo, sono sbagliato, hai trovato il capitolo? Ah, guarda, grazie, 16, verso 19, nella mia notizia non l'ho scritto il capitolo. Romani capitolo 16 verso 19 dice Paolo ai credenti di Roma, dice, quando a voi la vostra ubbidienza è nota a tutti, Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati nel male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. In altre parole, Gesù dice: io voglio avere questa qualità speciale dell'ubbidienza perché io voglio stritolare Satana. Sapete perché il diavolo vuole che i giovani, i bambini, i giovani e la gente non impara ubbidienza? È perché sa che quando noi siamo ubbidienti, impariamo l'ubbidienza verso Dio, anche nella casa di Dio, verso le autorità, nella Chiesa, eccetera. Lui sa che questa ubbidienza è così potente. Paolo dice alla Chiesa: la vostra ubbidienza è diventata conosciuta da tutti, e vi dico una cosa, che il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Perciò Gesù dice: la qualità con la quale io vado sulla terra per avere successo nel mio mandato è ubbidienza. Wow. Non è quello che noi penseremmo forse la qualità speciale che noi dobbiamo avere. Ma perché io leggo questo? Perché ho detto tutto questo? Perché parlo di Gesù, di quello che lui ha fatto quando è venuto sulla terra? E in questa lettera Paolo parla di queste cose perché lui dice qualcosa nel verso 5, no? Filippesi 2, verso 5, lui dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. In altre parole, non era qualcosa che soltanto Cristo Gesù faceva, ma era qualcosa che Paolo dice: voi come Chiesa abbiate lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. Quello che Gesù ha fatto, fatelo anche voi. Sapete, questo che ho appena letto si chiama a livello teologico l'incarnazione, diciamo insieme, incarnazione. Quando Cristo è diventato uomo si chiama l'incarnazione. E sapete che l'incarnazione non ha finito quando Cristo è diventato Gesù, ma l'incarnazione di Cristo nel mondo va avanti. E la Chiesa di Cristo è l'incarnazione di Cristo a Modugno. Ehi, applauso. Forse qualcuno pensa: ma che cosa ha a che vedere con l'Ecclesia? Esattamente questo. L'Ecclesia, la Chiesa di Cristo, è l'incarnazione di Cristo della società, perché l'incarnazione non era soltanto una volta, continua ad avvenire sempre. Quando noi come esseri umani, come gente che sono tentabili, sai perché la Chiesa ha paura del mondo? Perché abbiamo paura della tentazione, vero? Non andare a questa festa dove sono tutti gli amici tuoi, non fare questo, non andare nella discoteca, non andare là, non fare questo, perché vogliamo proteggerci dalle tentazioni. Cristo non si è protetto dalla tentazione. E com'è che noi Chiesa molto spesso siamo molto preoccupati a proteggerci dalla tentazione? Dio vuol fare lo stesso con noi come Cristo ha fatto con se stesso. Lui vuole riempirci e non ci dà nemmeno la certezza che se noi andiamo verso il mondo, come diceva la conferenza, quando noi come Chiesa ci avviciniamo al mondo, non andiamo via dal mondo, ma ci avviciniamo al mondo con questa forse un po' di paura, diciamo: Signore, io so che io sono tentabile, ma tu sei con me, amen? E non c'è mai un'opzione, se noi come Chiesa ci tiriamo indietro perché abbiamo paura della tentazione, non possiamo sperimentare, non possiamo essere l'incarnazione di Cristo nella società se non vogliamo essere in una posizione dove noi possiamo essere tentati senza cadere. E anche se cadiamo, ci alziamo di nuovo e andiamo avanti. Amen? Lo stesso sentimento. Abbiate in voi lo stesso sentimento che Cristo aveva. È diventato un essere umano. Sapete, noi cristiani, noi non impressioniamo il mondo quando diamo l'impressione di essere perfetti. Sapete? Sapete? Una chiesa che è attraente, è una chiesa che ha uomini e donne dentro che non hanno tutto sotto controllo. Ci siete? Una persona che non ha tutto sotto controllo, se viene in questa chiesa e vede tutta gente che tutti hanno tutto sotto controllo, la famiglia che è perfetta, i figli ubbidienti. Se qualcuno viene da te e dice, mamma mia, io sono disperato, i miei figli sono così disubbidienti, di alleluia, almeno uno c'ha i figli disubbidienti. Una volta un team della nostra TV nazionale è venuto nella chiesa nostra a filmare e stava filmando prima della riunione, durante la riunione, dopo la riunione e poi stavo mangiando con quello che è il direttore di quello, del team che filmava per fare un documentario. E parlavamo, ho detto, ma avete già filmato in altre chiese come la nostra? Ha detto, sì, sì, sì. Ho detto, quindi avete un po' di esperienza con chiese evangeliche? Dice, sì, sì, ho un po' di esperienza, sì, sì. So un po' la lingua, cosa significano certe parole che dite, no? La testimonianza, per esempio, la testimonianza. sono tutte parole, la testimonianza. Oppure dare la vita a Dio, ha detto. Dice, come se uno è stanco di vivere. All'inizio non lo capivo che significava dare la vita a Dio, ma ora sì, lo so, la testimonianza. Ah, dice, sulla testimonianza, dice, sì, le testimonianze che si sentono nelle chiese evangeliche sono sempre le testimonianze quando uno ha sfondato, diciamo, quando è guarito, no? Prima era un alcolizzato, e ora è liberato, no? Però dice, non ho mai sentito una testimonianza di uno che non è ancora liberato. E io ho detto, eh? E che cosa volete dire? No, dice, si sente sempre storie di gente che è liberata, gente che non fuma più, gente che non beve più, eccetera, eccetera. Però cosa fa una persona che non è ancora liberato? Se ne va a casa scoraggiato perché ancora non è liberato. Dovreste lasciare parlare la gente che dice non sono ancora liberato, ma io credo in Dio che Lui mi libererà. Sapete com'è incoraggiante quando uno viene, non vede tutti i liberati, ma vede anche la gente che è onesta abbastanza da dire io non sono ancora liberato, ma vengo lo stesso. Non perdiamo potenza come Chiesa. Abbiamo ancora più potenza, la gente viene e dice ma qua ci sono un paio di altri non liberati ancora, quindi sono in buona compagnia. Sapete perché? Perché il diavolo dice tu sei l'unico. Ah ok, applaudiamo insieme. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Il diavolo fa questi scherzi con la gente, dice sempre tu sei l'unico che ha problemi con la pornografia, guarda tutti gli altri, sono tutti, guarda come alzano le mani nella loro azione, quelli sono tutti santi, tu sei l'unico. E non è vero, se siamo onesti, ci sono abbastanza gente che combatte in varie parti della vita, forse una famiglia che dice io non so più come educare i figli, abbiamo perso il controllo, abbiamo bisogno di aiuto, conosci qualcuno che ci può dare qualche consiglio? Ah, pure tu, ma sai pure io, non l'ho detto a nessuno, ma a il cielo nella chiesa, ma l'inferno a casa. Ah sì, pure tu, sì, ma andiamo a bere una birra insieme. Quando la chiesa è onesta, siamo più potenti che mai. Perché tutto il resto non è vero, no? Non esiste. Abbiate lo stesso sentimento in voi come in Cristo. Lui non aveva paura di esporsi a questo essere tentato. Lui ha servito. Sapete, voglio dire di nuovo quello che è stato detto nella conferenza, quello che hanno fatto i volontari. Io voglio che voi comprendete che il diavolo è arrabbiato contro i volontari di questa chiesa. Voi pensate che il diavolo è arrabbiato quando Gianni predica, perché predica la parola di Dio? No, il diavolo è arrabbiato quando vede uomini e donne che servono, perché questo è lo spirito di Cristo. Lui sa che se la chiesa serve, se la gente comincia a servire, diventano potenti. È una chiesa che non serve la città, è una chiesa che non serve. O se tu dici al sindaco, la chiesa aiuta, è una chiesa che serve. Ma se la chiesa non fa niente per la città, se la chiesa non si coinvolge nella città nel fare del bene nella città, per una persona che non è parte di questa chiesa, lui pensa la chiesa non serve. Ma se siamo una chiesa che serve, siamo una chiesa che serve. Abbiate la stessa attitudine in voi, lo stesso sentimento che è stato in Cristo. Lui si è esposto a una situazione dove lui poteva essere tentato, dove lui serviva e dove lui ha anche lasciato il cielo. Abbiamo sentito, ho dimenticato il tuo nome, Mario. Mario ha detto, in effetti noi iniziamo, la conferenza finisce, ma noi iniziamo, no? Noi iniziamo. E Dio vuole che noi lasciamo il cielo della conferenza. Il cielo era, e la conferenza era il cielo, vero? Era il cielo sulla terra, che bello, no? Ma sapete, il modo che Cristo ha usato per raggiungere te e raggiungere me è lasciare il cielo. Molto spesso noi come chiesa vogliamo vivere nel cielo, vogliamo fare le tre tende qui dove c'è Mosè e il profeta, Gesù, siamo qui tutti insieme. Gesù dice no, dobbiamo lasciare e andare giù nella valle dove sta la gente. Noi siamo stati fatti non per il cielo. Noi siamo stati fatti per andare nella terra, per lasciare il cielo, diciamo, quello che voglio dire io, per lasciare questa atmosfera nella quale ci sentiamo a nostro agio, che è bello, il Signore, la presenza di Dio e tutto. Non siamo stati fatti per rimanere in questa presenza, siamo stati fatti per andare, per lasciare, come Cristo, lasciare il cielo e entrare nella terra, entrare nell'umanità. Questo che Dio vuole che noi facciamo. Io voglio incoraggiarvi come chiesa. Questo errore fanno troppi cristiani, che noi vogliamo rimanere nel cielo. Creiamo il cielo intorno a noi. Amici cristiani, canzoni cristiane, gingomme cristiane, caramelle cristiane, film cristiani, tutte cristiane. Una cosa che mi è piaciuta molto per la conferenza non erano le prediche. Sapete che cos'era? Le canzoni di Bruno Mars, prima della riunione. Non ci sono molte chiese che non le canzoni di Bruno Mars. Che ci ricordano che viviamo sulla terra, vero? Vero? Lasciamo il cielo, dobbiamo lasciare il cielo. E lo dobbiamo fare apposta, dobbiamo... È qualcosa che è intenzionale, dobbiamo per forza. Sapete, come chiesa, voi siete così ricchi, siete così pieni di Dio. Il più debole qui nella chiesa è così pieno di Dio che potete dare così tanto alla gente intorno a voi. Non possiamo rimanere nel nostro cielo. Se Cristo ha lasciato il cielo per incarnarsi, noi dobbiamo anche lasciare il cielo. In altre parole, non dobbiamo dire la conferenza è finita, oh, la conferenza è finita, yeah! La conferenza è finita. Yeah! Io sono così contento che quello che anche vedo della chiesa piena Evangelo, e in molte chiese che hanno compreso che noi non siamo qui per noi stessi, che il grande mandato che abbiamo sentito anche nella conferenza dal nostro amico dalla Germania, che questa è la visione di ogni chiesa, andate in tutto il mondo, Dio non ha cambiato idea, non ha detto un'altra visione, la visione del regno di Dio è di raggiungere tutto il mondo, di lasciare il cielo. La Chiesa negli Atti degli Apostoli, anche se Gesù aveva detto voi inizierete qui a Gerusalemme, ma poi vi sposterete nella Giudea, in Samaria. E cosa ha fatto la Chiesa? Ha fatto un bel cielo a Gerusalemme. Forse la chiesa si chiamava Il Cielo sulla Terra Christian Fellowship. E poi è venuta la persecuzione, ha mandato tutta la gente dal cielo, fuori dal cielo. No? La Bibbia dice questo. E dovunque sono andati, hanno predicato il regno di Dio. La gente è venuta al Signore, perché Dio non ci ha fatti per rimanere nel cielo. E poi, sapete, quando io sono andato in Austria, ho dovuto imparare una lingua. Ho imparato il tedesco. Dite insieme, tutti insieme, poverino. Il tedesco è l'ultima lingua che avrei imparato, diciamo, volontariamente. No? Non so come quando si vede nei film di guerra. Mamma mia, sono sempre arrabbiati, ho pensato. Ma prima ho provato con l'inglese, dopo l'inglese ho imparato il tedesco. Io ho imparato una lingua per raggiungere la gente in Austria. E sapete, quando noi lasciamo che questa incarnazione avviene, lasciamo il cielo, lo facciamo apposta, lo facciamo intenzionalmente, e poi impariamo una lingua. Io sono cresciuto, dicevo, stamattina in una famiglia cristiana, ho imparato un linguaggio, una lingua che solo i cristiani più o meno capivano, no? Il sangue di Gesù, dare la vita al Signore. Poco tempo fa un giovane mi ha detto, veramente mi ha detto, ma perché devo dare la vita al Signore? Io non voglio morire, ha detto. E oggi parlo in una maniera che dice... fai una decisione, la prima decisione oggi di vivere la vita con Gesù. Quindi tutte queste parole che aiutano la gente a comprendere, se diciamo fai Dio, Gesù, il Signore della tua vita. Ma la parola Signore non è qualcosa che i nostri capiscono, tu Signore, non siamo più nel... se tu dici il Re, sì, il Re, ok. Ci sono altre parole che possiamo dire che hanno la stessa potenza. Gesù vuole essere il coach della tua vita, vuole venire e vuole accompagnarti ogni giorno. E tu ti capisci il coach? Il coach ha il pallone, la partita, l'allenatore, qui dobbiamo fare quello che dice l'allenatore, quindi per forza. Quindi Gesù si coinvolge, Gesù non vuole essere lo spettatore della tua vita, vuole essere il tuo allenatore. Gli spettatori sono là e ti vedono come stai giocando, e l'allenatore è proprio là e ti guida e ti fa diventare un giocatore migliore. Ah sì, sì, Gesù vuole essere il tuo allenatore. Qualsiasi sia la lingua che noi dobbiamo trovare per poter spiegare la meraviglia del regno di Dio, dobbiamo impararla. Dobbiamo imparare insieme una lingua che non soltanto noi capiamo, ma che tutti capiscono. Io leggo qualcosa ora, vediamo un po' cosa posso. Molecola sul fetal, zinco antibatteria, pirofosfati, estratti di salvia e timo, aiuta a prevenire il tartaro, boh. Pasta per prevenzione anti-tartaro, non contiene parabeni, triclosan, sodio, laurin, solfato. Ma sapete che cos'è questa? È un dentifricio. E tu dici, non lo potevi dire prima. Quando tu vedi la pubblicità del dentifricio, non vedi mai prosolfato, ocrum, io, cambrioto, perché non lo comprerebbe nessuno. Sai che dice la televisione? Questo dentifricio ti fa i denti bianchi. E ci sono, andiamo a evangelizzare la gente. E diciamo, ma sai che... devo togliere l'occhiale, così piccolo, scritto... Parliamo con la gente così, parliamo con la gente, pirosfati, estratti, salvia, timo, tartaro, tricosan, sodium, laurin. E la gente non ci capisce, ma che stai dicendo? Quando Gesù è venuto e ha predicato, una cosa che Gesù ha fatto, che non ha usato, era la profondità della sua sapienza. Non l'ha mai usata. Sai che ha fatto? Ha detto, un giorno c'era uno che è andato a seminare e i farisei e i sadducei, ma speriamo che oggi viene con una teologia un po' più profonda, perché l'altra volta questa la capivano tutti, non poteva, capì? E Gesù diceva, uno che va a seminare il seme, butta il seme e va sulla strada, sulle rocce. È cose molto, molto normali. Perché Gesù faceva così? Perché lui voleva parlare un linguaggio che tutti capiscono. Gesù in altre parole diceva alla gente, venite a me, io vi faccio i denti bianchi. Il titolo di questa predica oggi è Gesù fa i denti bianchi. Gesù ha detto, venite a me tutti che sono aggravati e appesantiti e io vi darò riposo. Anche oggi vogliono tutti riposo. Prendete il mio peso su di voi, perché il mio peso è leggero. E non diceva le cose strane, una lingua che non capiva nessuno. Chiesa piena Evangelo, il Signore vi ha fatto non per il cielo un giorno, ancora no, ma vi ha fatto per l'essere umano che vivono qui, in questo paese, in questa città, a Bari, nella Puglia e in tutta l'Italia. E vuole che noi sperimentiamo anche un'incarnazione come Cristo anche l'ha sperimentata. La Bibbia dice che anche Gesù prese un'altra forma, un'altra apparenza, la Bibbia dice ha preso un'altra apparenza, ha avuto l'apparenza, come dice, lo devo ritrovare, è scritto qua, prendendo la forma di servo, divenne simile agli uomini. Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gioiosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo. Sapete, Cristo ha cambiato anche la sua forma. Ha cambiato la sua forma perché? Per raggiungere noi. Giuseppe nella Bibbia ha cambiato la sua forma per salvare Israele. Quando i fratelli di Giuseppe hanno visto Giuseppe, non sembrava un ebreo, era truccato come un egiziano. Quando Daniele nella Bibbia ha lavorato per il re di Babilonia, lui non sembrava come un ebreo. Quando Ester nella Bibbia fu usata da Dio per salvare Israele e diventare, diciamo, la donna che viene accettata dal re, e poi lei, sapete la storia, tramite Ester viene salvata tutta la nazione di Israele dalla distruzione. Ester ha cambiato la sua forma anche per fare questo. E sapete, Chiesa, non è una cosa che non è una cosa santa, una cosa di Dio, quando noi cambiamo la forma di essere Chiesa, il modo di essere Chiesa, ma è una cosa molto potente. L'ha fatto anche Gesù, ha cambiato la sua forma, è diventato uno di noi. Sapete perché l'ha fatto? Per amore per noi. Io voglio incoraggiare anche la gente qui che dice, ma no, tutto sto tipo di, io voglio avere le riunioni come prima, con le canzoni senza troppo rumore. Se eravamo in tre, cantavamo le canzoni senza strumenti, senza luci, senza tutte queste cose, e c'era la luce naturale di fuori, si vedevano gli alberi, si vedevano, no, vogliamo ritornare. Ma Dio dice, no, queste cose non devi forza averlo, possiamo anche cambiare la nostra forma. Perché lo facciamo? Perché amiamo la gente. Gesù ha cambiato la sua forma perché ci amava. E l'incarnazione era un atto di amore verso di noi. Amen? Alziamoci in piedi insieme. Io ho sentito di darvi questo messaggio perché sento che Dio vuole mandarvi intenzionalmente, dopo questa conferenza, vuole catapultarvi nel mondo e vuole che ognuno di voi vada in mezzo al mondo con coraggio, non aspettando fino a quando tu sei perfetto, sei pronto, eccetera. sei pronto ora? E Dio dice: andate nel mondo e fate quello che potete fare, servite il mondo, servite la gente del mondo, imparate la lingua del mondo, la lingua che un modo di esprimervi, un modo di essere che può raggiungere il mondo. Mostrate il mio amore al mondo. È l'incarnazione che Gesù, che Cristo ha iniziato a Natale. È un'incarnazione che va avanti e porterà molta gente al Signore. Amen. Preghiamo insieme. Signore, io ti chiedo che tu ci aiuti veramente avere lo stesso sentimento che Cristo Gesù ha avuto, che anche se lui stesso era Dio, si è abbassato, è diventato uomo, si è esposto ai pericoli della tentazione, ha cambiato la sua forma, è diventato uno di noi. Signore, io ti chiedo che tutti quelli che sono stati, che sono qui, che sono stati anche alla conferenza ecclesia, si mischiano nel popolo, tra i loro amici, nella loro famiglia e dovunque noi siamo. Siamo l'incarnazione di Cristo intorno a noi. Io ti chiedo, Signore, che tu togli ogni paura da chiunque è qui che dice: oh, da lunedì in poi comincia la vita normale. Signore, io ti chiedo che quella potenza dell'incarnazione entri in ogni lunedì, in ogni martedì, in ogni mercoledì, in ogni giovedì, in ogni venerdì, in ogni giorno della nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie per aver ascoltato. Amen.